E anche oggi fa caldo Antò. Hola. Attenzione Gio Maria, CC. Claudio, CC. Manuele, CC. A tu! Guarda, io sono... Ci sei? Sì, ci sono, ci sono. Parla tu a vedere. 1, 2, 3, prova, attento Tonino, come va la vita, dai un bel 2 secondi a quel cane, così lo fai ingrassare. Allora io ti sento forte e chiaro, però a te no, cioè, mi sento tramite telefonino, perché qua non ti sento. E come vai, non mi senti? Aspetta, dai, c'ho il piede messo male. Come mai non mi senti? Ma che male che potassilino hai? Guarda. Mi senti? Guarda se mi senti. Avanti, mi senti? 1, 2, 3, prova. Niente da fare. Ma come mai? Ma cosa c'è in questa antenna? Io adesso... Non sapessi, come so che il discone ha diverso. Cosa c'è? Non c'è niente, perché se fa in trasmissione va anche in ricezione. Evidentemente, c'è qualcosa che non è adatta per quella frequenza lì. Non lo so, perlomeno credo che sia così. Vedo un pochino se mi senti. Sì, ti sento fortissimo anche, tu mi senti a me. Allora c'è qualche problema, controllate bene la parte alta dell'antenna, sarà lì. Guarda se mi senti. Scusami, prova a parlare al telefono, guarda come... No, parla tu Giulio. Sentito di sì, parlo io, 1, 2, 3, prova, attento Claudio, riesci ad ascoltarmi? 1, 2, 3, prova, attenzione, batti di crema, dai, un bel bistecche, birra, di tutto hai, vediamo un po'. Hai visto, mi sono sentito anch'io, tramite il telefono, mi sono sentito anch'io. 1, 2, 3, prova, adesso no, sì, adesso mi sento lo stesso, però più basso. Vuol dire che c'è qualcosina, dai, controllate bene che già l'ho trovato. 1, 2, 3, prova, attento Claudio, va bene, no, guarda che... A momento, io lo so, io ti sento al telefono, quando io mi sento te lo dico subito, però c'è stato solo un piccolo aggancio, ma niente di più. Ecco, ancora di nuovo, vedi, adesso forse prova a muoverlo, si vede che non c'è contatto. 1, 2, 3, prova, ecco, adesso c'è, vedi, adesso c'è, era grande anche. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Si vede che c'è qualche cosa in quel contatto. 1, 2, sto parlando, 1, 2, 3, prova, attento Claudio, attento Tonino, 1, 2, 3, prova, nuda da va, 1, 2, 3, prova, ecco, adesso sì, vedi, io ho anche il telefono vicino, sicché mi sto sentendo anch'io, adesso lo allontano, sono disturba, però già, adesso già sta funzionando, dai, e beh, cos'era il difetto? Guarda che forse non arriva al contatto in fondo, nel portatile, sarà quello mi. C'è nessuno? Giulio? Sì, dimmi, mi senti? Mi senti Claudio? Giulio, mi senti? Io sì, io ti sento, tu a me no? Claudio, io ti sento. Mi senti? 1, 2, 3, prova, mi senti? Io ti sento, ma tu a me non mi senti. Pronto. Pronto. Thank you. era col Catesardi. Giulio, mi senti? Sì, che ti sento, a Puglia. Ti sento bene, qua. Allora la posso appesi che c'è antenna, la posso tutta appesi. No, no, piglia uno di quei radiali e ne fa tre pezzi e si fa una piccola Grand Prix che funziona benissimo, che vogliono lunghi 15 centimetri e mezzo l'uno. Una Grand Prix, costruire una Grand Prix, fate tre radialini e uno centrale e vogliono tutti della stessa lunghezza, 15 centimetri e mezzo, e sono sicurissimo che funziona alla grande. Va bene, dai, avanti la rampa a terra, prima che possa Buggio, e te la accudo al Rocco Romano della Vocca, anzi, la tengo io e domani la con il culattonino. Beh, dai, chitarra, altro da vedere qualcuno che da buone le cattesate in PMR. Oh, no, non a Tonino Cavazzacchi, a Tonino quello della GBC, perché l'ha fregato, quell'antenna non serve a niente, capito, a nulla serve. Quello, ma te l'ho detto, quello lì da un bel po' di tempo che sta a parte, sta vendendo Mondezza, sta vendendo. Va bene, vai, che adesso ne rascendiamo. Ti ringrazio calorosamente, ti lascio a Tonino al microfono e io vado a staccare l'antenna, ciao. Ciao Claudio, non c'è problema, figurati, non c'è bisogno di ringraziamenti, ok. Ah, prova, prova. 1, 2, 3, prova. Abbiamo rifatto tutti i mezzi. È acceso il PMR? Guarda a vedere se mi senti. 1, 2, 3, 4. Sono, aspetta che lo sono a posizione, non so se mi sento, non può fare però, dai. 1, 2, 3, sono sempre dalla nostra posizione, 1, 2, 3, 4. Claudio, io ti sento, Aspetta. Chi è che mi sente? Aspetta. Gio Maria, tu sì. Vabbè, ma tu non fai il testo perché sei troppo vicino. Ah, che va bene. Io ti No, no, no, tu non c'è problema. Mi interessa in lontananza, perché è qua, allora è l'antenna, e PL le abbiamo fatte tutte e due. Prova Giulio. Aspetta, mi senti? Attenzione Claudio. Claudio. Oggi perché stai uscendo così attratteggiato, sì. Ma chi è Giulio, Giovanni? Sì, infatti lo sento attratteggiato. E qua non arriva per niente. E adesso mi senti? Adesso ti sento bene giù. Perché non ero nella posizione che devo stare per farmi sentire bene. Ma mi senti, Tony? Tony, lo senti a Giulio. Ma mi sente Gio Maria, mi sente bene? Io ti sento bene. Prova Giulio. 1, 2, 3, prova. Ecco, adesso sto arrivando lì. Stai arrivando senza il PL collegato, quindi sopra è fatto, sotto è fatto. E l'antenna. Claudio? Sì, che è? Sì, qualche problema in antenna c'è, evidentemente c'è un problema in antenna. Adesso io addirittura mi sento, tramite il telefono mi sto sentendo. Non lo so, comunque è da vedere questa cosa. Adesso gliela tolgo questa antenna e montiamo l'altra, dai. Giulio. Sì, dimmi. Come mi sei? Ma dov'è Claudio? In campagna? In campagna, sì. Ma lì prova tu a vedere se riesci a farti sentire. A casa di Tonino, che stanno piazzando l'antenna, stanno piazzando di Tonino, però hanno un problema che esce bene e non riceve, capito? Prova tu Maria a vedere. Attenzione Claudio. No, non ti sento Marino. Io ti sento benissimo, ti sento. Io giù lo sento, una modulazione bella, pulita, limpida, senza quel e niente. Adesso ti ho sentito. Bravura, meno male. Già lo sai dove. Zitto, la vita. Come funziona lì, Claudio? Stacchi PL, la massa e si sente, come mai? Non lo so. Antenna. Sicuramente c'è qualche problema in antenna, sì. Oh, io stavo parlando io. Ah, io sto arrivando lì. da sera io sto arrivando, perché io mi sento tramite mi sento da può essere perché no, è vero. Che strana frequenza quella. Comunque c'è una portante a fondo scala qua, vi copre tutti. C'era quello che stava mettendo musica sarda poco fa, c'era uno che stava... E vabbè, questo vabbè, c'è anche un radioamatore, perché arrivare in questa zona così... Non senti la portante? A fondo scala qua è anche qua Giovanni. È bella forte Giovanni la porta. È fortissimo quello Marino, con la portante tu mi sentivi? Beh, era fortissimo anche qua Marino. C'era la portante di nuovo, dai. È bella forza la portante. Sì, è molto forte, chissà che leghi su questo pellegrino che si sta divertendo in questo modo. Mi sentite adesso? Sì, io ti sento bene. Claudio? È un problema di antenna, dai. Eh beh, sì, sicuramente. Marino e Gian Maria, vi saluto a Tonino, dai. Perché devono fare il lavoro, non è completo, cioè con l'antenna non, evidentemente è difettosa. Grazie, grazie della portante. Marino, attento Marino. Giulio. Marino, ci sei? Giulio. Attenzione sul canale 7, qualcheduno mi riceve cambio? Tonino, attenzione Claudio, cambio. Attenzione Claudio. C'è qualcuno in PMR? Pronto? Giulio? Gian Maria, c'è qualcuno? Sono io Claudio, avanti. Ok, mi senti bene Mari? Benissimo, adesso benissimo. Tu sei a fondo scala qua, quindi tu sei abbastanza lontano, mentre prima mi sentivi male, vero? No, prima ti sentivo benissimo sempre, sei tu che non mi sentivi magari, capito? Adesso arrivi una cannonata. Va bene, io vi ringrazio a tutti, adesso devo andare a preparare la cena. Ok, al limite ci sentiamo dopo, Mari. Arrivi fondo scala. Meno male, dai. Ok, ciao Claudio, salutami tutti i componenti, dai. Ci sentiamo più tardi se in caso, dai. Ciao a tutti. Ciao, grazie a tutti. Ciao, sta arrivando proprio un bombo, la tua modulazione, che insomma, è come se sia a fianco a me, benissimo. Fondo scala per te, la ricezione è ottima con tutto il PL attaccato, dai, c'è l'antenna in corto, gli ho sostituito l'antenna. Benissimo, ciao, buona cena, ciao. Ciao, grazie.